Proseguendo sulla Gemara, abbiamo studiato la Mishnah dell'inizio del trattato di Makot e abbiamo visto che la Mishnah apre con una domanda. La Mishnah pone la domanda: in che maniera gli Edim diventano Zomemin? Ora, se due testimoni vengono e dicono che, per esempio, una testimonianza che è stata fatta da altri testimoni, che sono sempre almeno due, non è valida perché il fatto che loro hanno testimoniato noi l'abbiamo visto in maniera diversa, oppure non è accaduta, oppure è accaduta in un'altra maniera, eccetera. Allora questi non sono edim zomemin, questi sono edim, abbiamo detto, mukhashin. È una edut mukheshet, è una edut che è contrastata. In quel caso, visto che la Torah dice che la testimonianza di due o più testimoni è una testimonianza valida, se ovviamente i testimoni stessi rientrano nel criterio di testimoni validi, allora perché dare più peso a questo gruppo di testimoni rispetto a quell'altro? E cosa possiamo fare quindi? Non possiamo fare nulla. Il caso rimane in sospeso finché non c'è ulteriore possibilità di, appunto, andare avanti, cioè non possiamo usare nessuna di queste due testimonianze. E questo è il caso della Eidut Mukheshet, della testimonianza contrastata. Noi invece stiamo parlando della testimonianza che si chiama Zomemin, ovvero che il secondo gruppo di testimoni dicono che i testimoni stessi non discutono sul fatto che sia accaduto o meno, discutono sulla presenza dei testimoni precedenti durante il fatto per poter testimoniare. Loro devono essere presenti. Loro dicono: voi eravate con noi, imanu hayitem, eravate con noi o da un'altra parte o in quel giorno non era possibile che sareste potuti essere lì. In questo caso non è una edut, una testimonianza contrastata, bensì sono edim, sono testimoni zomemin, che sono considerati falsi in questo senso. E qui la stessa Torah, che ha detto che bisogna accettare la testimonianza di due testimoni, dice che in un caso così viene accettata la seconda testimonianza, ovvero che rendono falsi i primi testimoni, dicendo imanu hayitem, con noi eravate stati, e la Torah addirittura dice che i primi testimoni vanno puniti subendo la stessa conseguenza che avrebbero voluto far infliggere a il soggetto della testimonianza. Stiamo ricapitolando. Ora la Mishnah ha detto: Keitzad ha'edim na'asim zomemin? In quale maniera i testimoni rientrerebbero, diventano letteralmente na'asim, diventano zomemin, rientrano in questa categoria di testimonianza falsa? E la Mishnah ha fatto degli esempi. La Mishnah ha detto: se due testimoni vengono e dicono, questo tale che è un Kohen è in realtà il figlio di una donna che era precedentemente poi divorziata, oppure un caso simile, Chalutza, in questo caso il figlio di questa unione di un Kohen che sposa una donna che non dovrebbe sposare, il figlio di questa unione si chiama Halal. Halal significa invalido per la Keunah. Cioè può andare al cimitero, diventare impuro al morto, non può mangiare la terumà che solo i coni possono mangiare, ovviamente non può lavorare nel Bet HaMikdash, eccetera. È un halal, è invalido dalla Keunah. Allora, questa testimonianza cambierebbe lo status della persona, ok? Se è un Kohen o se è un halal. Allora se vengono due testimoni e dicono: noi abbiamo visto che suo padre sposava o eravamo testimoni in qualche maniera che ha sposato una donna divorziata, e quindi lui è un halal. Vengono altri due testimoni, dicono: come è possibile che voi dite di essere stati a Villa Miani durante questo matrimonio, se eravate con noi in crociera all'Isola d'Elba? Non è possibile, era lo stesso giorno, eravamo per una settimana in crociera. Allora i primi Edim si chiamano Edim Zomemin e la Mishnah dice, nonostante la Torah dicesse che normalmente agli Edim Zomemin viene fatto ciò che avrebbe dovuto essere fatto a chi era il soggetto della loro testimonianza, in questi casi loro ricevono Malkut, cioè la punizione generica che esiste per normalmente per trasgressioni di mitzvot negative, se non c'è la pena capitale, c'è la pena generica che è le frustate, si chiama Malkut Arba'im, cioè le frustate previste dalla Torah. Ok? Quindi la Mishnah sta dicendo loro non rientrano nella regola normale degli Edim Zomemin, bensì c'è il Malkut. Il secondo esempio che fa la Mishnah, se i testimoni dicono: noi testimoniamo che questa persona deve andare in esilio, per esilio si intende le città rifugio, come abbiamo studiato nella Mishnah, se una persona uccide un'altra persona in maniera involontaria, deve comunque essere esiliato nelle città rifugio, è una cosa che approfondiremo man mano adesso nella Gemara, ma se questi Edim risultano Zomemin, in teoria, per quello che ha detto la Torah, dovrebbero andare alla città rifugio, invece no, ricevono Malkut Arba'im anche loro. Questo è quanto abbiamo un piccolo, in breve ricapitolato dalla Mishnah. Ora vediamo cosa dice la Gemara. Guardiamo il testo, dove è indicato in grassetto Gemara, Gimel Mem con l'apostrofo, Gemara. La Gemara dice così: Ha Keitzad. La Gemara pone innanzitutto una domanda. Com'è possibile? Come? Keitzad significa come? Se la Mishnah vuole dare degli esempi di casi in cui non viene fatto agli Edim Zomemin ciò che avrebbero voluto far fare al soggetto della testimonianza, perché è questo che la Mishnah ha detto. La Mishnah ci sta dicendo le eccezioni che sono Edim Zomemin, ma gli vengono date le frustate e non vengono puniti secondo quanto avrebbero voluto fare al soggetto della testimonianza, vero? Allora la Gemara dice: Keitzad ena Edim nasim Zomemin mi baelei. Mi baelei significa avrebbe dovuto. La Mishnah avrebbe dovuto dire Keitzad come en ha Edim nasim Zomemin, come gli Edim non diventano Zomemin. Perché zomemin significa, viene dalla parola kasher zamam, come hanno progettato di fare. Qui non viene fatto loro kasher zamam, come hanno progettato di fare. Quindi la Mishnah dovrebbe dire, normalmente gli Edim diventano zomemin, rientrano nel kasher zamam, nel come hanno progettato. In questi due casi che abbiamo detto, ena Edim nasim zomemin, non viene fatto loro quello che hanno progettato di fare. Perché la Mishnah dice, come diventano gli Edim zomemin? E procede a darmi dei casi in cui non si fa loro quello che avrebbero voluto fare agli altri, al soggetto della testimonianza. E la Mishnah, in teoria, avrebbe dovuto essere più esatta, invece di fare la domanda nella Mishnah, Keitzad ha'edim na'asim zomemin, com'è che gli edim rientrano e diventano zomemin, avrebbe dovuto dire Keitzad en ha'edim na'asim zomemin, com'è che invece gli edim non diventano zomemin. Cioè, la Gemara è come se dicesse, c'è un controsenso nella Mishnah. Prima mi apri la Mishnah chiedendomi come si rientra nel Zomemin e cosa significa Zomemin. A te viene fatto quello che tu hai voluto fare all'altro e procede a rispondere dicendomi i casi in cui c'è l'eccezione e non si fa a te quello che hai voluto fare all'altro. Non ha senso? Questa è la prima domanda della Gemara. Di nuovo la leggiamo nel testo. Ah. Se è così, cioè se la Mishnah procede a dare dei casi diversi dalla domanda d'apertura, allora qui è come se ci fosse una citazione, Keitzad en ha'edim na'asim zomemin, avrebbe dovuto mettere la parola en, non diventano zomemin, mi ba'ele avrebbe dovuto esprimersi in questa maniera. Questa è la prima domanda. Ve'od, inoltre, seconda domanda. La seconda domanda è, ve l'anticipo prima di leggere il testo, la seconda domanda è, c'è una Mishnah più avanti, che adesso citeremo, che spiega esattamente come gli Edim invece diventano Sisomemin, che si fa sì a loro quello che avrebbero voluto fare all'altro. Ok? Allora, Se la Mishnah lo spiega più avanti, perché porre la domanda qui? E legandoci anche alla domanda precedente, poi neanche rispondendo alla domanda, rispondendo un'altra cosa. Non Praticamente si contraddice. è una contraddizione, però È un modo strano di è un porre. modo strano di porre. Una variante. Vediamo il testo adesso. Però dovevano Solo un pensare a secondo. questo prima di Paolo. Esatto. Veod, inoltre, seconda domanda, mi decattane le kamman, visto che più avanti nella Mishnah. De katane, katane, tane si insegna, come Tania, Tenan, ok? Si insegna nella Mishnah più avanti la seguente cosa, e questa è una citazione. Aval, nella Mishnah più avanti è scritto, ma, Amerula hem, se avessero detto loro, cioè il secondo gruppo, dice al primo gruppo di testimoni, Heyah atem me'idin. Come potete permettervi di fare edut, me'idin, di testimoniare? Sheharei, poiché be'oto hayom, in quello stesso giorno in cui dite che è accaduto il fatto, atem heyitem imanu, voi eravate con noi, be'makom peloni, in luogo tale. Allora la Mishnah, sempre citando quell'altra Mishnah, dice, Harei eiluzomimin. Questi sono definiti come Eidim Zomemin, cioè ci ha dato il caso più semplice di cosa significa Zomemin. Primo gruppo dice una cosa, secondo gruppo viene e dice come potete dire questa cosa se eravate con noi in tale luogo che è diverso dal luogo in cui e del tempo in cui dite che è successo quella cosa, che è successa quella cosa. Questi sono Zomemin e viene fatto loro quello che avrebbero voluto far fare all'altro, ok? Bene. Allora la Mishnah dice cosa sono i Zomemin, ma lo chiede qui, non risponde e risponde più avanti. Che senso ha? Allora la Gemara, la domanda è chiara, sì? In altre parole, la nostra Mishnah sembra non essere sufficientemente chiara. C'è forse un messaggio nella nostra Mishnah che non abbiamo captato? Perché abbiamo queste perplessità? Allora vediamo subito, dopo la parentesi qui nella Gemara stessa, la risposta. La Gemara dice così. La nostra Mishnah in realtà è una continuazione, un proseguimento di quanto si è concluso nel trattato precedente, nell'ultima parte del trattato precedente. Qual è il trattato precedente? Il trattato precedente è quello, come abbiamo detto nella scorsa lezione di Gemara, è Sanedrin. Sanedrin, le regole appunto legate ai compiti dei giudici, che ovviamente anche no il nostro trattato rientra nella stessa categoria generale, perché sono cose di comportamenti, di cosa devono fare i giudici, che punizione devono infliggere, eccetera, eccetera. Allora, nella ultima parte del trattato Sanedrin, il decimo capitolo, ci sono 11 capitoli in Sanedrin, c'è una discussione. Se l'undicesimo è l'undicesimo o il decimo. Allora noi qui nel Talmud Bavli stiamo andando secondo l'opinione che appunto il decimo è l'ultimo, cioè sarebbe dovuto essere l'undicesimo. E lì alla fine di questo capitolo si parla proprio di Edim Zomemim, di questo stesso concetto. E si dice che Edim Zomemim vengono puniti con la stessa pena appunto che avrebbero voluto far fare a quella persona. E se sarebbe stata una pena capitale, anche a loro viene data la pena capitale. Ma c'è quale pena capitale? Perché ci sono quattro tipi di pena capitale nella Torah. Allora la Mishnah lì nel Sanedrin ha detto la stessa pena capitale che avrebbero voluto fare, con eccezione nel caso di un tipo di testimonianza specifico, dove loro testimoniano che una figlia di un Cohen è stata adultera, allora lì normalmente ci sarebbe un tipo di pena capitale, ma per la figlia di un Cohen c'è un altro tipo. Loro non riceverebbero quello che si farebbe la figlia di Cohen, ma riceverebbero quello che si Quell'altro. farebbe normalmente. Quindi c'è Perché sono Cohen. un'eccezione, sempre una pena capitale, ma c'è una variante, Certo. diciamo. Questo dice poi vedremo anche nello specifico che tipo di pene si tratta, la Gemara ne parlerà. Però adesso in generale la Mishnah di Sanedrin sta dicendo questo, prima di arrivare qui, in questa Mishnah di Makot, La Mishnah di Sanedrin dice i Edim Zomemin normalmente ricevono la pena capitale, però c'è un'eccezione. Quindi già qui c'è l'eccezione. Mi finisce con l'eccezione. E poi di conseguenza la Mishnah continua dicendo che c'è anche altri, ci sono anche altre eccezioni. È come se continuasse quello che ha detto prima. Abbiamo finito con una eccezione, ora veniamo e continuiamo. Prima di dare il quadro generale, proseguiamo lo stesso discorso dicendo e ci sono addirittura delle eccezioni ancora più estreme dove non ricevono proprio la stessa pena, e invece ricevono le frustate, come nei casi che abbiamo esposto nella nostra Mishnah. Ecco il proseguo del pensiero, che è quindi nel contesto della continuità della Mishnah. C'era una domanda banale. Sì? Ma allora, per non creare confusione, non potevano... Sì. Cioè questa parte qua non la potevano mettere nel invece Gamma Gott, ma direttamente in Sanedrin? Allora, in Sanedrin si parlava di che cosa in realtà? Si parlava delle pene capitali, non si parlava in realtà di Zomemin o di testimonianze in quel contesto. Il tema è un altro. Il tema è Eilu Hena Nechenakim, significa quali sono quelli che ricevono questa pena, quali sono quelli che ricevono questa pena, per quale trasgressione si riceve quell'altra pena. E quello è il tema. Solo che anche i Zomemin rientrano in quel tema perché c'è la pena capitale in certi casi. Allora c'è tutta una lista, tra cui alcuni casi di Zomemin, ma non che il contesto è Zomemin lì. Il contesto di Zomemin è qui, ma visto che siamo venuti da un esempio simile, si prosegue sullo stesso pensiero nel nostro contesto e poi si torna al contesto generale nella prossima Mishnah, come diventano sì Zomemin, e lì dice se Dvor dicono loro erano con noi, eccetera, e dà il quadro più generale, perché tenendo il discorso di prima, anche se il tema in realtà era differente. Bravo, io voglio... Sì? Ok. Prego. Tu parlavi prima di due testimoni che dicono che hanno visto, che hanno accusato, ok? Poi vengono altri due testimoni che contraddicono quello che dicono quei primi, no? Adesso il giudice come fa a sapere se quegli altri due sono anche loro Zomemim o non contro i Zomemim? È quello che dicevano l'altra volta, che sono anche che loro. Allora, come fai? Sì, rispondo. La verità dove okay, sta? Ok, ok. Allora, la domanda di William, che in realtà ne abbiamo già parlato la scorsa volta. Rimane così, allora. E l'ho anche alluso questa volta. Rispondo. Se arrivano due Edim e danno una testimonianza, e due Edim vengono e dicono voi eravate con noi. Sì. La Torah dice bisogna dar retta al secondo gruppo. Se arriva un terzo gruppo e dice ma questo secondo gruppo era con noi, bisogna dar retta al terzo gruppo. Anche se arrivano 100 gruppi, bisogna dar retta all'ultimo gruppo che arriva. Ora, nel durante, può cambiare mille volte lo status del soggetto originale della testimonianza, chiaramente, se è valida o non è valida la testimonianza riguardo la sua trasgressione. Però i giudici non lo possono sapere. Ecco perché esiste una differenza tra Eidut Mukheshet, cioè la Eidut che è contrastata, contraddittoria. Alziamo le mani, non possiamo fare né come uno né come l'altro, perché entrambe sono due testimonianze che sembrano siano valide, testimoni che sembrano siano validi. Allora c'è un contrasto, c'è una contraddizione, non possiamo agire al momento. Nella Eidim Zomemin, dove dicono immanu hayitem, eravate con noi, la Torah dice bisogna dar retta al secondo gruppo, senza una logica. I giudici non sanno chi ha ragione. Nello stesso modo che la Torah dice che bisogna accettare la testimonianza di due testimoni, anche se non sappiamo con assoluta certezza se è una testimonianza valida o meno, cioè rientrano nei criteri generali di testimoni validi, rientrano nei criteri generali, bisogna fare una indagine e bisogna fare, ci sono delle domande. Questo il secondo gruppo, anche se sono due, viene quello dopo, in questo caso sono magari 100. Esatto, stessa gruppo, cosa, stessa validità, da 2 a 1000 hanno la stessa validità. Questo perché? No, tranne in questo caso. Questo si chiama Gzeirat HaKatuv. Vabbè, ma nel frattempo non c'è punizione allora. No, se non c'è decisione non c'è punizione. È in sospeso. Si sospende. Però tu dici, come fanno a sapere? Non lo sanno. Devono seguire la regola della Torah. La regola della Torah, non hai la motivazione. Xerata Katuv, lo stesso modo che due testimoni normali, in realtà, non hai una certezza, certo, tra virgolette. È una soluzione, è scritto la Torah. Questa è la risposta, Xerata Katuv. Se no... È un decreto del versetto, letteralmente si chiama così. Cioè, è come se fosse un chok, una di quelle regole che trascendono la logica. E Leone Bechavod, dimmi. No, niente, praticamente sì, ma mi sembra che l'avevamo detto. Ma dimmi. Praticamente se il verdetto, a seguito di una testimonianza, viene emesso un verdetto, e il verdetto viene eseguito, e poi nasce una seconda testimonianza che invece avrebbe scagionato chi è stato condannato. Allora, abbiamo detto che il Zomemin esiste solamente se ancora non è stato messo in atto quello che è stato fatto nella sentenza. Invece se vengono dopo non rientra più nel Zomemin. Allora, però la risposta l'abbiamo detta ma non l'abbiamo letta nel testo. Guardiamo il testo dopo la parentesi. Come qua la sentenza finisce, no, Tana, Sanedrin, penso, quello che chiamo. Teniamoci al testo. Tana, il nostro Tana Hatam Kae si riferisce a lì. Lì significa l'ultimo posto in cui abbiamo lasciato la Mishnah, cioè Sanedrin. Cosa è scritto? È scritto lì, e qui c'è la citazione di quanto dicevamo. Kol hazomemin makdimin leotam mita. Tutti gli edim zomemin vanno a finire con la stessa morte, se c'è una pena capitale, che avrebbero voluto che arrivasse al soggetto della loro testimonianza. Subiscono esattamente non solo la pena capitale, ma la stessa categoria di pena capitale. Chutz, con l'eccezione, Mizomemei Bat Kohen Uboala, degli Edim Zomemin, che hanno fatto una testimonianza riguardo una Bat Kohen, una figlia di Kohen, sposata, che loro dicono era adultera, Uboala e chi ha fatto l'adulterio con lei. Ok? She'en makdimim leotamita, che non riceverebbero questi edim zomemin la stessa pena capitale che sarebbe inflitta su quelle due persone, in quel caso, bensì, ela lemita acheret, riceverebbero un altro tipo di pena capitale, un'altra modalità di pena capitale, non la stessa. Ora la nostra Mishnah, Yeshe dimazomemin acherim, continua questo stesso filo di pensiero dicendo nella nostra Mishnah ci sono altri edim zomemin ancora sheno simbem din hazama kol ikar, che non viene per niente applicata a loro il concetto di hazama, di fare a loro quello che avrebbero voluto fare, e la malkot arbaim solamente ricevono le frustate come se fosse un altro tipo di avera e non edim zomemin. Keitzad, quali sono questi casi d'eccezione a cui non si applicherebbe proprio il concetto di hazama? Quelli che abbiamo detto nella nostra Mishnah. Medina anu beish ploni shu ben gerusha o ben chalutza. Noi testimoniamo che questo Kohen è un halal perché è figlio di per esempio, divorziata. E non rimie a se ze ben gerusha o ben chalutza tachtav. Non diciamo che se il testimone è un Kohen, allora facciamo diventare a lui halal. Non lo invalidiamo dalla keuna. Gli diamo le makot, gli diamo le malkut, e la loketa arbaim, riceve la frustata. Ok? Quindi questo è il filo di pensiero, o il filo comune, che lega la nostra Mishnah all'ultima Mishnah di Sanedrin. Ecco perché la Mishnah inizia in maniera che può sembrare strana se tu la prendi tukur. Invece se la prendi dalla fine di Sanedrin, capisci il filo che lega. Ok? Questo la Gemara ha voluto chiarire innanzitutto la struttura della nostra Mishnah che non sembrava avere senso. E strada facendo ci ha fatto capire alcune cose, che ci sono già altre eccezioni spiegate prima, subito in precedenza, e la Mishnah vuole concludere con lo stesso filo aperto, anche se si è aperto un nuovo trattato, conclude l'altra eccezione ancora maggiore, e cioè che non si applica proprio il concetto di Hazama in alcuni casi, come per esempio il mandare in esilio, non lo si manda in esilio, ok? O il diventare figlio di divorziata, non lo si fa diventare figlio di divorziata, cioè non subisce quel tipo di cambio di categoria, ma rientra nelle malkot. E quindi la Gemara, avendo chiarito questo aspetto della Mishnah, andrà poi ad approfondire le motivazioni della Mishnah. Per quale motivo in questi casi non si applica il kasher zamam, non si applica il concetto di hazama? Allora nella prossima lezione approfondiremo questo aspetto qui. Ora che abbiamo capito cosa la Mishnah sta dicendo e che filo sta seguendo, ora vorremmo approfondire e analizzare le motivazioni. Perché in questi casi specifici sono da considerare delle eccezioni a cui non si applica la regola normale di Zomemin, che è la hazama, il fare a loro quello che hanno voluto fare agli altri. Azak. Azak.